Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Comincia un mese nuovo, ma i problemi che affrontiamo nel nostro programma sono i problemi vecchi. La prima rata dell'IMU, l'acconto, va versata entro il 17 giugno, ma il pagamento, come sapete, non è dovuto per gli immobili che hanno le caratteristiche dell'abitazione principali. Sono inoltre esentati gli inquilini delle case popolari, gli assegnatari di abitazioni in cooperativa, gli immobili rurali. Tutto chiaro? Non proprio, perché invece le situazioni, come dire, ibride sono migliaia e questo sta generando molta confusione. Tanto per fare un esempio, i contribuenti che non sono esentati dall'acconto stanno ancora facendo i calcoli perché i comuni di appartenenza hanno variato le aliquote rispetto allo scorso anno e quindi non è per tutti chiaro se debbano pagare l'acconto con le regole dell'anno scorso o quelle di quest'anno. Per la verità, una risposta è arrivata nei giorni passati con una circolare del Ministero delle Finanze datata 23 maggio, che ha dato il via libera alla possibilità di applicare le regole del 2012, e di questo abbiamo parlato anche, lo ricorderete, lunedì scorso. Ma neanche questo provvedimento sembra aver, come dire, chiarito le idee a completamente tutti quanti. Non sembra un procedimento totalmente lineare per tutti. Per questo noi oggi abbiamo deciso di proseguire i nostri appuntamenti di Salva Danaio dedicati all'IMU, ancora almeno per questa settimana, in vista della scadenza del 17. Vi anticipo anche che mercoledì sarà in edicola una dettagliata guida del Sole 24 Ore, un dossier che illustra chi paga e chi non paga l'acconto di giugno in base alle nuove regole e la disciplina per i versamenti delle altre categorie. Oggi intanto a disposizione di Salva Danaio, come promesso lunedì scorso, sono ritornati Cristiano Dell'Osta del Sole 24 Ore. Ciao. Buongiorno. Non sei impegnato con altre trasmissioni, con la concorrenza oggi? Oggi no. Tra l'altro Cristiano scrive a lungo anche sulle prime pagine del Sole Oggi quanto incasso lo Stato prevede di fare con l'operazione IMU, e quindi vi daremo anche qualche cifra interessante. Con noi torna anche Mirko Mionne, presidente di AGEFIS, l'associazione Geometri Fiscalisti. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, tra l'altro volevo anche ricordare un'altra cosa. Molti di voi, molti ascoltatori ci hanno sollecitato anche sul tema dei nuovi bonus per le ristrutturazioni, molto generosi. Non temete, ci attrezzeremo per fare al più presto anche tante trasmissioni su questo argomento, su questo tema. Per ora abbiamo deciso di dare la priorità alla scadenza imminente dell'IMU. Poi da giovedì, vi ricordo anche questo, cominciamo un ciclo di puntate sulla riforma del condominio che entra in vigore il 18 giugno, quindi non lasceremo indietro nessun argomento. Giugno è sicuramente il mese della casa, ormai lo abbiamo battezzato, possiamo battezzarlo così. Allora, per tutte le vostre domande, come sempre, le modalità per chiacchierare con noi, per intervenire a Salva Danaio, sono le stesse come per gli altri programmi. Numero verde 800 24 00 24, gli sms al 349 238 6666, le vostre mail al nostro indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. ci trovate anche su Facebook, su Twitter. Adesso però è il momento della borsa. La borsa è negativa oggi in Europa, risente della chiusura negativa di Wall Street di venerdì scorso, della nuova batosta che ha preso questa mattina l'Asia con il Nikkei, che a Tokyo ha chiuso con un ribasso del 3,72%. Abbiamo un ribasso adesso che è di circa mezzo punto percentuale per Parigi, un paio d'ore fa perdeva oltre un punto. Anche Francoforte perdeva oltre un punto, adesso lo riduce a meno 0,7%. Londra meno 0,39%, anche per Londra si sta ridimensionando il ribasso di questa mattina, anche per Londra era superiore al punto percentuale. Milano meno 0,73%, Milano invece è stata piuttosto stabile dall'apertura. Cosa succede? Sono arrivati molti dati sull'andamento dell'industria manifatturiera in Europa. In Italia il dato è ancora sotto i 50 punti, come sapete 50 punti indicano la spartizione, la separazione tra un'economia in contrazione e una in espansione. Un dato quindi inferiore a 50 punti indica ancora contrazione economica, però a maggio in Italia questo indice è salito a 47,3 punti, al top da 4 mesi. Sembrata una buona notizia, forse per questo Milano non perde più di questa percentuale. Exor più 2%, holding di casa Fiat, miglior titolo da stamattina. Saipem più 1,50%, Monte dei Paschi più 0,6%, Autogrill più 0,5%. I ribassi più forti: Ansaldo meno 2,72%, Finmeccanica meno 2,28%, Fondiaria meno 2,26%, meno 2 punti anche per Azimut e la Popolare dell'Emilia Romagna. Sospese dalle contrattazioni in attesa di comunicato le azioni Pirelli e Camfin. Per la borsa è tutto, direi di andare subito al tema di oggi. Cristiano, si apre la corsa al pagamento dell'acconto IMU. Di quali cifre stiamo parlando? Che cifre si stanno mettendo in movimento? Stiamo parlando di circa 10 miliardi di euro, che sono quelli che dovranno versare i proprietari di immobili da qui al 17 di giugno, che è la data appunto di scadenza del versamento dell'acconto. Bisogna dire che la cifra più o meno è uguale a quella dell'anno scorso. Cambia però, come scriviamo sul Sole 24 Ore di oggi, la composizione del mix. Cioè, rispetto all'anno scorso, ovviamente non vanno alla cassa i proprietari di abitazioni principali, i proprietari di terreni agricoli, di fabbricati rurali e di quelle altre tipologie che sono state inserite nella sospensione, quindi le case popolari, le cooperative edilizie a proprietà indivisa. Cosa succede però? Che si arriva comunque alla stessa cifra dell'anno scorso perché si paga con le aliquote comunali del 2012, nella maggior parte dei casi, insomma non andiamo a vedere poi le eccezioni. Aliquote 2012 che sono più care di quelle che sono state usate per l'acconto dell'anno scorso. L'anno scorso si era pagato con le aliquote base statali, dividendo il gettito tra Stato e Comuni, quest'anno si usano le aliquote comunali e, tranne che nella situazione dei fabbricati accatastati nella categoria D, quindi fabbricati produttivi, non si deve dividere l'acconto tra Stato e Comune, che è una semplificazione. Insomma. Tu tra l'altro dicevi non andiamo a guardare le eccezioni relativamente al fatto di quei comuni che hanno variato l'aliquota. In realtà forse magari un caso è il caso di parlarne un po', perché se il Ministero dell'Economia ha ritenuto opportuno esprimere con questa circolare che è stata diffusa proprio una decina di giorni fa degli opportuni chiarimenti su quali aliquote andassero applicate, possiamo precisarlo, quanti comuni hanno variato? Ma allora diciamo che la stragrande maggioranza dei comuni non ha proprio deliberato, perché quando si è sparsa la voce che il governo stava studiando la sospensione, allora i comuni si sono un attimo fermati, hanno detto alziamo le mani, vediamo cosa fa il governo e decideremo. Tant'è vero che comunque c'è tempo ancora fino alla fine di giugno per deliberare le decisioni sulle aliquote IMU. Dove però ci sono dei comuni che hanno preso la delibera già per il 2013 e dove questa delibera è migliorativa per il caso specifico del contribuente rispetto a quella del 2012, allora la circolare delle finanze chiarisce che io come contribuente posso scegliere l'aliquota per me migliore, con un'avvertenza che complica un pochino le cose, cioè che questa scelta in teoria io la posso fare solo fino a quando non verrà approvato l'emendamento in conversione del decreto sui pagamenti della PA, che è quello che stabilisce la regola che si deve usare il 2012. Ora, qui entriamo in un campo un po' spinoso, perché diventa difficile dire a un contribuente che magari fino al 7 di giugno, perché il decreto va convertito entro il 7 giugno, potrà usare, o meglio potrà scegliere l'aliquota che preferisce, e poi dall'8 giugno in poi dovrà usare per forza quella del 2012, quindi è un caso un po' complicato, nel senso che come abbiamo già scritto anche la scorsa settimana, diventa difficile poi pensare che chi sceglie l'aliquota 2013 anche dopo la conversione del decreto venga sanzionato, sarebbe un po' ingiusto. Ecco, tra l'altro, che tipo di sanzioni sono previste per chi effettua correttamente il pagamento? Beh, sono le sanzioni per chi va a, diciamo, sbagliare un calcolo o a non pagare, quindi andiamo nell'ordine del 30% dell'imposta non pagata, che è appunto la sanzione, oltre all'imposta non pagata. Attenzione però, perché c'è comunque poi la possibilità di intervenire con il cosiddetto ravvedimento operoso, che consente fino a un anno dal pagamento, dal mancato pagamento, di correggere appunto la propria scelta di versare quello che non si è versato con una sanzione ridotta. Allora, intanto stanno cominciando, come era prevedibile che accadesse, stanno arrivando tantissime domande da parte dei nostri ascoltatori, e vedo che in qualche maniera le situazioni, quelle ibride come le ho definite ad inizio programma, sono un po' le stesse di cui ci siamo sempre occupati anche nelle altre trasmissioni appunto dedicate a questo argomento. C'è chi ha magari un'unica abitazione, ma questa abitazione non viene utilizzata perché magari una persona è fuori per lavoro lavoro per un determinato periodo di tempo, questa abitazione viene utilizzata da un altro familiare che stabilisce qui la residenza e qua non si capisce bene se l'IMU debba essere versata, con quale criterio viene stabilito se questa è l'abitazione principale e per chi, e insomma le situazioni sono un po' queste. Direi di farvi subito sentire Mion, glielo dico già qualche domanda di qualche ascoltatore, così cominciamo subito a rispondere loro in modo tale che vivacizziamo e concretizziamo subito il programma. Massimiliano su Twitter ad esempio ci scrive: per l'abitazione principale non si paga e basta o c'è qualche formalità burocratica comunque da espletare? Mion, non è un'osservazione del tutto sciocca, non è tutto scontato. No, direi che no, è una domanda che proviene anche dalla clientela che viene presso i nostri centri raccolti. Effettivamente colui che in questo momento possiede un'abitazione cosiddetta principale, quindi ha le due connotazioni oggettive della residenza e del domicilio presso questa abitazione e detiene la proprietà o comunque un diritto reale, si vede sospesa in questa fase del pagamento del 17 di giugno la prima rata. Non deve fare assolutamente nulla, in questa fase non è prescritto nessun tipo di adempimento. Io direi soltanto che anche a maggior precisazione di quanto dicevamo prima, è importante ricordare, giusto per rincuorare un pochino anche gli ascoltatori in questa fase, che viene lanciato anche nella circolare 2DF un salvagente, che è quello dell'applicazione dello statuto del contribuente, che in qualche modo mette a riparo, seppur a tempo, prima della conversione del DL35, coloro che dovessero sbagliare. Infatti lo statuto del contribuente dice che le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza legislativa, sia sulla portata sia sull'ambito di applicazione della norma tributaria. Io direi che in questo caso, in questo Ginepra, in questo dedero dell'IMU, qualche incertezza e qualche la portata nell'ambito dell'applicazione della norma ci sta. Ma secondo lei, Mion, ci sono molte persone che stanno già pagando l'IMU di propria competenza e non aspettano il 7 giugno, non aspettano quantomeno qualche giorno prima il 17 giugno, la scadenza naturale? È la classica situazione, soprattutto noi vediamo, le porto il caso concreto di tutti gli anni, dei pensionati che vengono presso di noi a fare il modello. Tutti precisi, loro vorrebbero, volevano la compilazione del bollettino dell'ICI e oggi quello dell'IMU perché partono per le vacanze, quindi effettivamente andiamo un pochino a fare delle attività a tranche cronologiche a seconda del momento, cerchiamo di comprendere quale sia la migliore soluzione anche per il contribuente, applicando quello che la normativa ci ha messo a disposizione. Allora, intanto adesso sono pronti Filippo da Napoli, Luciana da Milano con le loro domande in diretta. Un'altra osservazione che arriva sempre da Twitter di Mario: ho solo la mia prima casa, ma mi sono dovuto trasferire e ho spostato la residenza. Pago o non pago? Cristiano, temo proprio di sì. Questo è uno di quei casi in cui si paga e si paga come seconda casa, quindi con un'aliquota che può essere spesso anche dell'1,06%, che è il livello massimo. E questa è proprio la tipica situazione che ha creato il più vivace disappunto tra i contribuenti, perché uno insomma non si capisce per quale motivo, già obbligato a trasferirsi per ragioni di lavoro, chiaramente non è che può portarsi dietro l'abitazione principale. Era così già ai tempi dell'ICI, nel senso che in mancanza di residenza scattava la tassazione. Il problema è che con l'IMU questa tassazione è molto molto pesante. Su un appartamento di medie dimensioni si può facilmente arrivare a pagare 800, 900, 1000 euro, e allora si capisce bene che se quella casa è vuota, non dà alcun reddito, il proprietario si sente tartassato. Filippo da Napoli inaugura le nostre telefonate di oggi. Buongiorno Filippo, sento che la mia voce sta diventando sempre più precaria minuto dopo minuto. Filippo, buongiorno. Sì, vi ringrazio, magari è anche per il vostro regalo per il mio compleanno di oggi. Ah, ottimo, anche lei è un gemellino come me, Filippo, io lo faccio tra qualche giorno. Auguri anche a lei allora. Si dica. Una cortesia, io approfitterei anche dei suoi ospiti per delle considerazioni, ormai come si dice ci daremo un pizzicotto anche qualcuno in più sulla pancia per quest'anno. Io sono un proprietario di un secondo immobile con un reddito basso, volevo sfruttare questa telefonata per avere anche il parere vostro su un discorso proprio di equità. Questa legge sull'IMU, sulle seconde case, in che modo può essere può essere migliorata proprio per un concetto di equità. Chi paga, cioè magari ci sono tante persone, io la contatto da Napoli, che magari sono disoccupati e sulla seconda casa ci fanno vivere una famiglia. Certo. Ci sono delle spese. Io purtroppo sarò particolarmente sfortunato. Ho una casa in un immobile dove perdiamo mille cause per esagerare, ma tantissime cause, cioè non dovrebbero permetterci di detrarre comunque quelle che sono le spese passive. Dovrebbero fare un netto distinguo tra chi magari guadagna 10.000 euro al mese e ha quell'appartamento rispetto a chi magari è disoccupato oppure ha un reddito basso. Questa Filippo, è una cosa. Certo. Io l'ho messo all'attenzione di io conosco direttamente o indirettamente dei politici. Volevo approfittare del vostro parere per cercare di capire questa legge. Anche secondo voi, in che allora, modo? Certo, Filippo, guardi, è un tema, come lei sa, all'ordine del giorno dell'attuale governo, che ha l'impegno specifico entro il 31 agosto di formulare una riforma complessiva della tassazione sulla casa. In questo momento questo governo, per oggettive problematiche finanziarie, si è potuto permettere solo la sospensione dell'acconto per chi detiene appunto un'abitazione principale, peraltro non ha potuto fare di più. Il 17 giugno va versata la prima rata dell'IMU, l'acconto IMU, ma anche se la scadenza è imminente, per la verità la questione del pagamento, il calcolo dell'aliquota non è chiaro per tutti i contribuenti, perché come dicevamo anche in apertura di programma ci sono centinaia di situazioni ibride e complesse per le quali appunto i contribuenti sono ancora alla ricerca di informazioni e di chiarimenti. Allora, prima di riprendere il terreno concreto e le domande dei nostri ascoltatori, rispondiamo a chi ci ha chiamato appunto nella prima parte del programma, Filippo da Napoli, che ci raccontava di essere proprietario di un secondo immobile sul quale evidentemente appunto paga un'IMU piuttosto salata, proprio perché non è la sua prima abitazione, e però lui dice, insomma, visto che stiamo parlando, leggiamo su tutti i giornali di questa riforma complessiva della tassazione sull'oggetto casa, siamo sicuri che andremo verso una direzione di maggiore equità fiscale. Cristiano, quali temi sta affrontando il governo in questo momento? Come sta ipotizzando di confezionare questa riforma? Allora, diciamo subito che il problema principale dell'IMU è sostanzialmente che è un'imposta molto cara e che se lo Stato non rinuncia in modo significativo a una parte degli incassi previsti, è difficile avere un abbassamento del prelievo. Soprattutto se i 4 miliardi di risparmio che si possono fare vengono concentrati tutti sull'abitazione principale, è chiaro che non c'è spazio per ridurre la tassazione sulle seconde case. Detto questo, i piani del governo puntano a individuare hanno diverse possibili soluzioni. Una, come dicevamo, è quella di esentare tutte le abitazioni principali, però non resterebbe risorse per fare sconti sulle seconde case o su altre situazioni. L'altra soluzione invece è quella di andare a dire esentiamo soltanto alcune abitazioni principali, magari in funzione del reddito del proprietario, e con quello che ci avanza vediamo di fare qualche altra cosa. Che cosa? Una prima soluzione di cui si è parlato nei giorni scorsi, è un emendamento che è stato anche avanzato alla Camera, sarebbe quella di assimilare, quindi di trattare come abitazioni principali anche le case date in prestito dai genitori ai figli o viceversa dai figli ai genitori, cosiddetti comodati. Allora, questa quindi è una rivedere bene tutta la, come dire, lista delle possibilità di esenzioni. Eh sì, di fatto se ci fosse questa assimilazione, la casa prestata dal padre al figlio, che oggi viene trattata come seconda casa, invece non pagherebbe più e sarebbe trattata come abitazione principale. Questo già risolverebbe un grosso problema di iniquità, tanto per cominciare. Poi certamente bisognerebbe intervenire sulle seconde case, e allora qui in realtà non c'è molto che si possa fare, perché il problema è proprio quello di nozione di seconda casa. Una seconda casa sfitta può essere una casa al mare di pregio, può essere anche la casa ereditata dai genitori o la casa che io non utilizzo e che si trova in campagna e che non riesco a vendere. Una soluzione è quella che per esempio è stata adottata da alcuni comuni come ad esempio Verona o Asti, che oltre un certo numero di case possedute, mettiamo dalla terza, dalla quarta, dalla quinta in su, aumentano l'aliquota. Questa potrebbe essere una soluzione, però è chiaro che si va verso il concetto di patrimoniale, quindi certo, poi è una scelta politica. Allora, adesso faccio naturalmente esprimere le sue considerazioni anche a Mirko Mion, però se è d'accordo ci metto insieme anche un paio di ascoltatori, così almeno arricchiamo ulteriormente il nostro contenitore. Allora volevo sentire Lorenzo da Vicenza sul tema dei codici tributo, perché anche su questo tema stamattina interviene il Sole 24 Ore. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a tutti. Il suo esperto mi ha un po' confuso quando ha detto che per gli immobili di uno si continua a distinguere tra erario e comune. Infatti io trovo i codici tributo 3930 comune e 3925 erario. Sì. Poi per la seconda casa io ho trovato ancora i codici tributo dell'anno scorso 3918 e 3919, mentre il suo esperto diceva che non si distingue più tra, cioè si paga con un unico codice tributo, a quanto avevo capito io. Allora, aspetti lì che Cristiano ha subito capito il tema di cui sta parlando, perché proprio, ah no, non è scrivi tu Cristiano, scrive Luciano De Vico, però insomma. Sì, sì, allora, ma è così, diciamo che non c'è nessuna contraddizione, nel senso che i codici tributo sono rimasti quelli dell'anno scorso, semplicemente su tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e diversi dagli immobili produttivi, quindi seconde case, negozi, uffici, eccetera, quest'anno si usa soltanto il codice tributo 3918, che è quello della quota che va al comune. Il codice tributo 3919 esiste ancora, l'hanno diciamo messo a punto l'anno scorso e non l'hanno cancellato, ma quest'anno, almeno per l'acconto, non va usato. Semplicemente c'è, ma non si usa. Perfetto. Ah, vabbè, lo potevano pure togliere, no? Non era. Beh, magari potrebbe tornare utile in vista del saldo, magari cambiano ancora le regole. Come Lorenzo, ci scusi. No, io sto usando il software dell'Agenzia delle Entrate per fare la dichiarazione di redditi modello unico, nella quale si può anche introdurre, per compensare, no? Perché io devo un po' compensare, nella sezione tributi locali, ce l'ho qui davanti sullo schermo, l'IMU. L'IMU. Ecco, questo software della SOGEI, che fa un po' da solo, che è quello dell'Agenzia delle Entrate distribuito gratuitamente, sì. E mi ha prodotto questo F24 che io sto guardando sul mio PC. Ma che teoricamente ancora non è... distingue, eccolo qua, 39,18 devo pagare tot, e 39,19 tra l'altro è stato anche bravo, cioè ha fatto i conti giusti, si vede che sapeva qual è il mio comune, cioè io ho introdotto qual è il mio comune. No? Beh, evidentemente avevo già inserito un codice fiscale e tutto. Cristiano, quindi che cosa fa l'ascoltatore? No, purtroppo non è così, non deve dividerlo, lo dice chiaramente la legge di stabilità per il 2013. Sentiamo un po', Mion, che ne pensa di tutto questo piccolo ginepraio? Non deve assolutamente dividerlo, deve calcolarlo e versarlo esclusivamente con il codice 3918, che è il codice per l'IMU per gli altri fabbricati destinati a comune. L'unica differenziazione, come mi pare sia stata detta, è per il gruppo catastale D, quindi con il 3925 per gli immobili ad uso produttivo, quindi la quota per lo Stato, il 3930 laddove il comune abbia inserito una maggiorazione dell'aliquota che per lo Stato è il 7,6 e può essere maggiorata fino ad un massimo di un 0,3 da destinare al comune. Stiamo intanto l'ascoltatore, anzi credo che faccia una segnalazione in diretta. Esattamente, quello che ho pensato io adesso, per poter perfezionare, per poter insomma sistemare questo errore. Il software. Faremo un test anche noi per verificare adesso. Infatti, allora, quindi speriamo di aver aiutato Lorenzo e soprattutto lo ringraziamo per averci segnalato questa problematica. Nel frattempo volevo rassicurare i nostri ascoltatori che non è che abbiamo dato i numeri nelle risposte fino a questo momento, abbiamo indicato i codici tributo per fare il versamento dell'acconto IMU e nient'altro. Allora, chi altro sentiamo? Domenico da Roma. Domenico, buongiorno. Buongiorno. Senta, intervengo perché ho un problema. Mio figlio ha un'unica abitazione, quindi prima casa, ma affitta una stanza ad un altro inquilino, per necessità naturalmente. Certo. Che cosa mi sa dire in proposito? Anche questi sono dei casi, Cristiano, non frequentissimi, però giustamente. Ecco, ma il figlio nella sua unica abitazione ha il requisito della residenza e del domicilio? Assolutamente, sì, certo, certo. Allora, in questo caso è una tipica situazione di abitazione affittata soltanto in parte, perché di fatto affitta soltanto una stanza, che ai fini IMU, secondo i chiarimenti delle finanze, viene trattata come abitazione principale, quindi il figlio beneficia della sospensione dell'acconto. Benissimo, quindi non deve preoccuparsi del fatto, non appunto. Non deve pagare nulla, quindi. Esatto, almeno per adesso, poi vediamo cosa succederà, ricordiamolo. Sì, certo, in questa revisione all'insegna dell'equità ci mancherebbe anche che venga penalizzato il nostro ascoltatore. Volevi aggiungere qualcos'altro? No, dicevo, ricordiamo che comunque tutta questa sospensione di cui parliamo è in attesa che il governo entro il 31 di agosto ridefinisca la tassazione sugli immobili, altrimenti al 16 di settembre tutti quelli che non hanno pagato a giugno devono andare alla cassa. Stanno arrivando tanti di quei messaggi di telefonate, sms, che non riesco più ad organizzarmi sulla scelta appunto dei quesiti da porre. No, però c'era questo che mi piaceva. Dino da Firenze, Mion, la giro a lei, ci chiedeva se la sospensione come funziona per le pertinenze della prima casa. Allora, io che sono ovviamente sempre molto superficiale, quando così considero le pertinenze, mi vengono sempre in mente o il box o la soffitta o la cantina. E invece Dino ci solleva il problema degli orti, chiede se siano esclusi perché considerati terreni agricoli o sono in un'altra categoria. Guardi, allora, il principio è che se un terreno agricolo è esentato dal versamento della rata del 17 di giugno, sui cosiddetti orticelli, così come erano stati definiti, generalmente non dovrebbe esserci, come dire, un reddito agrario, e di fatto comunque tutti i terreni considerati agricoli, e anche in questo caso, sono esentati dal pagamento della prima rata. Certo. Allora, c'è un altro problema che volevo, lo dicevo a Cristiano prima a microfoni spenti durante la nostra pausa, che è il problema che riguarda anche molti pensionati che hanno un secondo immobile di proprietà, magari non lo hanno affittato per problemi, perché magari abitano in certe zone in cui non è facile affittare, perché quella casa non serve a nessuno, ma naturalmente questa IMU e l'acconto va versato. Pensionati che naturalmente, percependo anche delle pensioni piuttosto contenute, non riescono adesso a fare questo versamento e non c'è tra l'altro nessuna possibilità né di rateizzare. Cristiano, come devono fare queste persone? Lo dico per esempio a un ascoltatore di Caserta che si era prenotato telefonicamente, che si chiama Generoso, quindi già il suo nome è tutto un programma. Generoso, lo salutiamo con affetto. Ma purtroppo non ci sono soluzioni facili, nel senso che l'imposta è dovuta e in qualche modo bisogna pagarla, e la legge da questo punto di vista non dà grandi scappatoie. Quello che possiamo dire è che se non si riesce per motivi di liquidità a mettere insieme tutta la somma subito, si può anche fare una sorta di rateazione fai da te, approfittando del fatto che con il ravvedimento operoso, che è quella procedura che dicevamo prima, il contribuente può calcolare da solo, o meglio con l'aiuto di un professionista, le sanzioni in misura ridotta, parliamo di pochi punti percentuali, e gli interessi legali, anche qui sono al 2,5% rapportati al periodo dell'anno, quindi sono molto bassi, e in questo modo può, come dire, fare una rateazione fai da te prima che arrivi l'accertamento da parte del comune. L'unico presupposto per poter fare il ravvedimento operoso è che non siano cominciate attività istruttorie o di verifica o di richiesta di informazioni da parte dell'ente locale, che altrimenti chiudono questa possibilità. Se ci si muove nell'arco di alcuni mesi, è ragionevole pensare che non partano le attività di accertamento. Ecco, questo è quello che si può dire. Dopodiché, chiaramente, il problema è un problema che andrebbe risolto da un punto di vista più generale. Infatti, l'equità di cui parlavamo prima. Tra l'altro, stavo pensando, lunedì prossimo, il 10 giugno, ancora una settimana prima della scadenza del versamento dell'acconto, varrà la pena fare un'altra trasmissione, Cristiano? A giudicare. Se vuoi, noi ci siamo. Vi sto blindando. Va bene, poi ve lo chiedo magari in maniera più carina, a microfoni spenti. Allora, andiamo invece adesso a Luciana da Milano. Luciana, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Io ho acquistato 5 anni fa un appartamento dove risiedo, per cui prima casa, e successivamente dopo 3 mesi un box di pertinenza, pagando le agevolazioni della pertinenza. L'anno scorso ho comprato un box più grande, pagando chiaramente la tassa di registro come secondo box, eccetera. Volevo sapere, ai fini dell'IMU, devo pagarlo come secondo, nel senso quello grande, che per cui la rendita catastale è maggiore, tutto maggiore, oppure posso scegliere io su quale pagarlo come secondo box? L'anno scorso ho pagato come secondo box quello più grande. Certo. Luciana, mi è venuto questo dubbio, certamente, perché il mio vicino invece ha fatto il contrario, l'ha scelto lui quello con la rendita più alta, l'ha tenuto di pertinenza, per cui slitta a settembre. Mentre quello più piccolo l'ha pagato come secondo box. Questo. Luciana, aspetti lì. Allora, quanto margine di discrezionalità ha questa nostra contribuente, Cristiano Dell'Oste? Diciamo subito che può scegliere, può fare come il suo vicino di casa, nel senso che quando ci sono due pertinenze dello stesso tipo, una delle due viene considerata, diciamo, nella categoria altri fabbricati, quindi in questo caso deve pagare l'acconto, ma il contribuente può scegliere quale delle due far confluire. Massimo da Salerno, buongiorno. Buongiorno. Massimo? Massimo adesso si è distratto. Sono io. Eccoci. Sì. C'è anche il bebè con lei, sì. Sì, esatto. Che vuole intervenire, giustamente, già preoccupato. Scusa. Allora volevo dire questo quesito. I miei due figli hanno una casa di proprietà che ho acquistato tempo fa per loro. Sì. Uno ci abita e l'altro si è sposato ed è andato a vivere logicamente in un'altra zona, in un'altra città. Che succede? Che il primo che ci abita paga l'IMU normale come prima casa. l'altra sposata. Perché paga vivendo... come non è la sua abitazione principale, mi non scusa. È la sua, e quindi paga perché come è la seconda sua... casa. Quindi lei perché è la sua Massimo le ha date figli. Vabbè. Sì. Quindi la cosa strana è questa, dico, se si chiama prima casa è l'unica che è di proprietà. Quindi... L'abitazione, il tema annosissimo dell'abitazione principale. Massimo, attenda là, vado da Mirko Mion. Mirko Mion, allora, Massimo, dunque, da quello che capisco sono però le case, se Massimo ci pone la questione, sono le case sue che ha dato ai figli. No, non è così, Cristiano mi dice che ho capito male. Scusi? Sì. Pronto? Mion, ci siamo, sì. Allora, se ho compreso bene, il signor Massimo ha acquistato intestando, e qui chiedo conferma al signor Massimo, le due figli, quindi lui le ha pagate facendo fare l'atto intestando l'abitazione al figlio, ai due figli. E allora perché è preoccupato? Che è domicilia e quindi ha due caratteristiche fondamentali, quelle oggettive, cioè quella del domicilio della residenza, quindi per cui è esente. Di fatto viene applicata tutte le, come dire, le regole dell'abitazione principale, in ultima questa sospensione del pagamento della prima rata. Il secondo figlio purtroppo non risiedendo e, se ho capito bene, non avendo nemmeno il domicilio, si vedrà costretto, come dire, al pagamento della prima rata con le condizioni di quelle che vengono considerate le seconde case. E infatti, questo è il punto. Massimo, non so se vuole intervenire con qualche altra osservazione. Massimo, l'abbiamo perso, però no, infatti, no, perché lui, da quello che avevo capito, sì. Prima casa. Debora, aspettate, fermi lì, Massimo. La sento poco, quello è il guaio. Dica. Allora, aveva capito la risposta? Sì, ho capito che comunque la ragazza che è sposata, vivendo da un'altra parte, deve pagare come seconda casa. Esattamente. Però io dico questo, il dubbio mio è questo, se la tassazione è sulla prima casa, significa su quella che hai, è unica. No, Massimo, lei proprio non ha capito la questione di fondo. L'esenzione è sull'abitazione principale, non si paga sull'abitazione principale, l'IMU, Cristiano, si paga sulla seconda casa, su una seconda proprietà e poi su tutta una rosa di attività commerciali che adesso non stiamo affrontando, tornando alle persone che abitano in abitazioni normali. Certo, il problema è che per la figlia che non risiede in quella casa che il papà ha comprato e ha intestato appunto a fratello e sorella, per intenderci, la figlia che non ci abita deve pagare come se fosse seconda casa sul suo 50%, anche se è l'unica casa che possiede, perché magari abita nella casa di proprietà del marito. Questo purtroppo non conta perché vale come seconda probabilmente casa. Probabilmente rientriamo di nuovo in quella famosa rosa di questioni da sistemare, però vedremo se ci saranno anche le risorse finanziarie per poterlo fare. Da chi andiamo adesso? Luigi da Lodi. Luigi, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie di avermi chiamato. Grazie a lei. Sempre. Grazie. Senta, il mio problema, io sono comproprietario di un terreno edificabile approvato dal Comune il 26 giugno dell'anno scorso. Sì. Mio fratello è controllore diretto, già iscritto alla gestione dei controlli diretti, tutto quanto. Il comune lui non lo paga, perché essendo controllo diretto non lo paga sul terreno edificato. Io, non essendo controllo diretto, lo devo pagare, dice il comune. Il mio commercialista dice di no. Qua adesso entriamo in conflitto tra i commercialisti e i comuni. Mion, a voi capita di andare qualche volta in condizioni di conflitto con qualche amministrazione comunale con le vostre consulenze? Beh, diciamo che è l'ordine del giorno, nascono dall'interpretazione, quindi effettivamente diciamo che ci sono quelle più distensive e quelle più restrittive a seconda della prospettiva da cui si guarda la stessa cosa. Io, se ho capito bene, il signor Luigi è comproprietario, ma indipendentemente dal fatto che sia comproprietario o proprietario, di un'area edificabile. Sì, esattamente. Però suo fratello è coltivatore diretto, probabilmente lavora. L'area è fabbricabile, di fatto non usufruisce della sospensione in questa fase, perché non è un terreno agricolo. La sospensione c'è esclusivamente per i cosiddetti terreni agricoli, indipendentemente dal fatto che sia condotto o sia di proprietà di un diciamo cittadino comune, quindi, o di un coltivatore diretto. Il comune naturalmente ha dato l'edificabilità e probabilmente un anno fa forse non sapeva che sarebbe, grazie a questa operazione, sarebbe stato in grado appunto anche di appunto raccogliere l'IMU che ne deriva. Quindi, se non fosse stato edificabile, gli ascoltatori non avrebbero pagato nulla. Luigi. Esatto. esattamente. E quindi niente, purtroppo è entrato all'interno del diciamo così, della sospensione, non dell'esenzione, della sospensione del versamento della prima rata del 17 di giugno in quanto terreno agricolo. Mione, lei lunedì prossimo che fa di bello? Vengo da lei. Ecco, ne possiamo rifare sì un'altra, ritengo che sia assolutamente necessaria. Io, perché qua sì, mi dica gli 10 secondi. Una cortesia, sì. Perché mi è rimasto, come dire, un cosiddetto colpo in canna del, sì, dell'intervento del signor Filippo, al quale auguro buon compleanno. Filippo il napoletano, sì, l'equità. Filippo il napoletano. 20 secondi però, dire, Mion, poi lunedì. Sì. Di carattere generale sarò brevissimo, me lo permetta. Diciamo che è stato molto puntuale Cristiano Dell'Otto. Mion, guardi, non ce la faccio purtroppo perché sto chiudendo, è partita la sigla. Lunedì le giuro che la faccio aprire da questo argomento, promesso. Perfetto. Promesso, grazie a Cristiano, a Mirko Mion, a Marco Lombardo, Pietro Lacorte, ci sentiamo domani, buona giornata. Salva Danaio.